Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, ci approssimiamo al mese di agosto, certamente molte nubi ci accompagnano in questo periodo, nubi legate alla situazione soprattutto economica e sociale che non cessa di lasciare con molti interrogativi molti italiani. E allora per affrontare questo tema anche in queste settimane vi consiglio una lettura non convenzionale e certamente neanche consolatoria, che però ci fa capire molto di più di quanto tanti economisti ci spiegano su questa crisi che stiamo vivendo, e un libro anche che sfata molti luoghi comuni. E infatti si intitola Favole e numeri, l'economia nel paese di santi, poeti e navigatori, il libro di Alberto Bisin, che è professore di economia alla New York University, è pubblicato all'Università Bocconi, 180 pagine, 16 euro. La premessa del libro è che molto spesso si parla male dell'economia perché ne diamo soprattutto una lettura ideologica. Bisin dice: il dibattito economico in Italia è profondamente segnato da una visione antiquata e scorretta dell'economia come disciplina semi-umanistica, popolata da teorie e scuole che si combattono a suon di retoriche, di ideologia, di favole e di numeri. E allora Bisin conduce un'analisi impietosa di queste deformazioni, che purtroppo non sono limitate al bar sport, cioè alle discussioni tra i non esperti, ma che colpiscono molto spesso anche il confronto tra i professionisti e anche i decisori della politica. E quindi passa in esame gli ambiti principali dell'agire economico: il mercato, le banche, la spesa pubblica e il welfare, nella speranza che il dibattito pubblico possa migliorare e portare a delle scelte più razionali. E su questo abbiamo sentito l'autore. Buongiorno ad Alberto Bisin. Buongiorno, buongiorno a tutti. Alberto Bisin, lei parla di favole. Una di queste favole è la presunta divisione fra due scuole di pensiero, i buoni e i cattivi, monetaristi e keynesiani. Ecco, perché è sorta questa favola? Lei sottolinea molto l'aspetto ideologico che c'è dietro questa invenzione. Sì, questa favola è sorta in Italia, perché l'Italia è ancora uno di quei posti dove, diciamo, si fa questa distinzione. Questa distinzione è esistita a un certo punto, diciamo, a fine anni 70 c'è stato un grosso dibattito all'interno dell'Accademia, e a un certo punto, da un punto di vista metodologico, diciamo così, Chicago ha vinto sul resto, ma solo da un punto di vista metodologico. Poi naturalmente gli economisti sono in disaccordo su molte cose, ci sono nuovi keynesiani che sono, diciamo, perfettamente all'interno della struttura. In Italia si tende a pensare proprio a due metodologie diverse, si tende a distinguere una metodologia anglosassone, che si tende a chiamare monetarista e cattiva, con una metodologia che oggettivamente è vetero keynesiana, che non usa nessuno, nemmeno i neo-keynesiani negli Stati Uniti o in Inghilterra o in qualunque altro paese del mondo, credo. Quindi si fanno analisi economiche sulla base di presupposti ideologici ancora oggi. Sì, purtroppo sì, direi proprio di sì. A proposito di questo, lei a un certo punto affronta un tema di cui si è parlato molto, si è riparlato molto nelle settimane scorse in seguito all'intervento anche del Papa, e cioè la globalizzazione. Ecco, lei è d'accordo con l'interpretazione che ne ha dato il Papa Francesco? Dunque, sì e no, insomma, credo che tutti i dati dimostrino che la globalizzazione sta provocando enormi vantaggi ai paesi poveri. Ovviamente basta guardare la Cina e l'India, e anche all'Africa, che pure ovviamente cresce molto meno e in maniera molto più diseguale, quindi l'Africa è più problematica, ma anche l'America Latina, con tutti i problemi di Brasile e Argentina, comunque si stanno muovendo nella direzione giusta. Quindi io credo che la globalizzazione abbia indiscutibilmente degli effetti negativi di costo, diciamo, soprattutto sui paesi ricchi, sulle classi medie dei paesi ricchi, e quindi su quello bisogna lavorare. Però argomentare che la globalizzazione sta facendo male ai paesi poveri, questa è un'oggettiva falsità, e purtroppo viene detta troppo spesso. Credo che sia assolutamente in contrasto con i dati. Ecco, tornando alle scuole di pensiero, lei a un certo punto scrive di non essere un liberista. Sì. Ecco, però mi sembra che la sua simpatia vada verso sistemi basati soprattutto sul mercato, sulla competizione, sì, eccetera. Qual è l'errore che del resto lei sottolinea, o i limiti che del resto lei sottolinea nel suo libro, dei liberisti all'italiana? Se ce ne sono ancora. Non ce ne sono mai stati molti, e quei pochi rimangono. No, io mi dichiaro non liberista, diciamo, ci sono due ragioni. La prima è che quando io propongo argomento a favore di politiche, diciamo così, liberiste, cioè più mercato in Italia, ritengo di farlo non sulla base di alcuna ideologia, ma sul fatto che l'Italia è uno dei paesi, diciamo, dove c'è meno mercato, diciamo almeno tra i paesi sviluppati, è uno dei paesi dove c'è meno mercato. Quindi in un paese dove il 50% del PIL è prodotto dallo Stato, più o meno, e dove diciamo siamo circa metà anche di imposizione fiscale, dire più mercato è semplicemente buon senso. E secondo me questo è un argomento, diciamo, completamente indipendente dall'ideologia. Poi, se uno pensa a un paese come gli Stati Uniti, no, lì ovviamente uno può naturalmente, logicamente discutere, vogliamo lasciare la sanità al mercato o vogliamo portarla nell'ambito pubblico. Quella è una discussione perfettamente ragionevole sulla quale ci sono diverse distinzioni ideologiche. Io su questo, ad esempio, sto dalla parte, diciamo, non liberista. Però, diciamo, appunto, il punto cruciale è il fatto che io dica mercato, mercato, mercato in Italia, non è perché io dica mercato, mercato, mercato, se io pensi che il mercato sia una cosa meravigliosa sempre e comunque. Lo penso per l'Italia perché ce n'è veramente troppo poco. A proposito di questo, un'altra favola che è sfatta è quella della cosiddetta crisi del capitalismo. Perché è nata questa favola? Che cosa significa? Beh, perché questa è una cosa un pochino vetero marxista, no? Marx ha questa idea che a un certo punto il capitalismo crolla, che più avanti, non solo Marx, insomma, che i capitalisti poi col marxismo più avanti, i capitalisti sarebbero impiccati con le corde che vendevano, no? Allora c'è questa idea che a un certo punto il capitalismo deve implodere, quindi c'è tutto un gruppo di persone che a ogni crisi dice questa è la volta buona, quasi sono quasi contenti, no? Questa è la volta buona, finalmente avevamo ragione, il capitalismo sta implodendo. Non è così, insomma, il capitalismo non è imploso, non sta implodendo, ribadisco, sta facendo meraviglie in Cina e in India. Siamo nel mezzo di una crisi drammatica provocata almeno alla parte americana, la parte europea secondo me è stata provocata soprattutto da irresponsabilità fiscale, ma la parte americana è indiscutibilmente stata provocata invece da irresponsabilità del sistema bancario privato, diciamo, quindi se vogliamo del mercato, perché un altro punto importante è essere a favore dei mercati. Tipicamente vuol dire essere a favore dei mercati competitivi, essere a favore di, non credo che nessun, neanche i liberisti ideologici siano a favore di mercati finanziari come quello americano, purtroppo molto poco competitivi, purtroppo mercati in cui, come dire, non si possono far fallire le banche, too big to fail, eccetera, eccetera. Credo che quello sia stato una delle fondamentali cause di questa grossa crisi. Capisce? Quindi in questo senso, ovviamente, anche lì non ho nessuna paura a stare contro il mercato, in quel senso ci mancherebbe altro. Il sistema finanziario americano deve essere profondamente riformato, ma non è la crisi del capitalismo, ci sono dei problemi e vanno affrontati. Uno degli argomenti centrali nel suo libro è un altro argomento di polemica molto frequente in questi ultimi anni, cioè la cosiddetta finanziarizzazione dell'economia. Sì, sì. Per quale ragione si è sviluppata questa tesi di pensiero e lei che cosa obietta? Ma vede, questa distinzione, la distinzione fra l'economia reale e l'economia di carta, secondo me è una distinzione, come dire, concettualmente fasulla. Un sistema di mercato moderno ha bisogno di un sistema finanziario molto ben sviluppato, ne ha assolutamente bisogno. Il sistema finanziario è fondamentale per come dire, diversificare i rischi, per portare i risparmi nelle mani degli investitori più efficienti, eccetera, eccetera. Quindi senza un grosso sistema finanziario, un'economia sviluppata come quella dei paesi occidentali non può funzionare. Come dicevo prima, questo non significa che questo sistema finanziario sia il sistema finanziario migliore. Io credo che negli Stati Uniti ci siano stati problemi enormi nel sistema finanziario e forse anche che il sistema finanziario americano è troppo grande rispetto al resto dell'economia, questo è plausibile, però discutibile, insomma, una questione empirica, però la distinzione che si fa fra economia di carta ed economia finanziaria è completamente, tra economia reale e economia di carta, cioè finanziaria, è una distinzione ideologica che veramente non ha nessuna ragione di essere. Un altro fantoccio polemico, soprattutto presso l'opinione pubblica, è l'euro. Lei lo difende l'euro nel suo libro, soprattutto difende l'appartenenza dell'Italia all'euro. Sì, io lo difendo, io credo che ovviamente la questione è un po' complessa, quindi io credo che l'euro ci abbia dato un'enorme opzione che noi abbiamo gettato. i tassi, si sono dati tanti numeri su questa cosa, io appunto dico che si davano i numeri da entrambe le parti, cioè si è detto che il famoso tesoretto dell'euro era immenso e non era così immenso, i tassi stavano calando comunque, ma c'è stato ed è stato abbastanza sostanziale. Io credo che quell'occasione noi l'abbiamo buttata e quindi ex post abbiamo dei problemi seri, l'euro ha dei problemi seri come sistema adesso. Quindi io credo, diciamo, che fosse buona cosa all'inizio sulla base di aspettative che l'euro ci avrebbe costretto a politiche fiscali non irresponsabili. Purtroppo non l'ha fatto. Una questione era prevedibile, alcuni l'avevano previsto, altri avevano previsto il contrario. Quindi su questo, diciamo, poiché ho avuto la fortuna di non aver detto né l'una né l'altra cosa, non mi esprimo, insomma, se fosse prevedibile. L'altro punto importante è: qualunque sia il giudizio, supponiamo anche che il giudizio sia negativo, cioè che alla fine abbiamo perso molto, l'altra questione importante è: vale la pena uscire adesso? Fa bene uscire adesso? Io credo che questo sia follia, io credo che in questo momento i mercati ci massacrerebbero. Quindi no, credo proprio di no, che purtroppo adesso non si possa uscire, credo che bisogna fare quelle politiche fiscali che l'euro ci ha dato l'opzione di fare in momenti migliori e purtroppo ci tocca farle in momenti drammatici. E ovviamente queste politiche fiscali sono costose nel breve periodo e averle fatte 10 anni fa sarebbe stata una cosa, averle iniziate 10 anni fa sarebbe stata una cosa più facile, meno costoso, farle adesso è costosissimo, ma non c'è via di uscita, io credo. Grazie ad Alberto Bisin, autore di Favole e Numeri. Buona domenica. Grazie mille, buona domenica a lei. Un'analisi a più voci della crisi è quella contenuta nel libro Alle radici della crisi, le ragioni politiche, economiche e culturali di un processo ancora reversibile, curato da Giulio Sappelli e Giorgio Vittadini, pubblicato da Rizzoli, 164 pagine, 10 euro. Questa è una serie di saggi dei due curatori e poi di Andrea Simoncini, Mauro Magatti, Massimo Borghesi e Davide Rondoni, che danno dei punti di vista diversi e quindi offrono una lettura particolarmente sfaccettata e completa e anche insolita da questo punto di vista della crisi. Per esempio, il sociologo Mauro Magatti pone l'accento sul fatto che viviamo in un periodo che egli chiama potentemente neosofistico, dove una buona comunicazione è quello che conta. Oppure troviamo il poeta Davide Rondoni che ci dà una lettura della crisi attraverso Leopardi, Baudelaire, Rimbaud, Pasolini e Luzzi, con una sottolineatura che troviamo nel saggio di Rondoni, e cioè che il segno della nostra epoca sarebbe la noia che ci rende poco intelligenti e in uno sbadiglio ingoierebbe il mondo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di montagne e comincio con un libro di Enrico Camanni che si intitola Di roccia e di ghiaccio, storia dell'alpinismo in 12 gradi, pubblicato dalla Terza, 270 pagine, 18 euro. L'autore è uno storico dell'alpinismo torinese che ci racconta qui la storia dell'alpinismo attraverso le tappe più importanti di questa pratica, in 12 gradi per l'appunto, dalla salite meno difficili ma ugualmente decisive per stabilire un nuovo rapporto con la montagna fino a quelle più complesse e avventurose, e quindi si parte da quella proverbiale, l'ascesa di Francesco Petrarca, considerata la prima ascensione della storia e una delle prime testimonianze letterarie e forse la più importante, viste le pagine che dedicò Petrarca a questa impresa che compì nella Settimana Santa del 1336 salendo il Mont Ventoux in Francia, in Provenza. Forse la prima ascesa dell'alpinismo moderno può essere considerata la conquista del Colle dell'Is sul Monte Rosa, che fu affrontata da 8 ragazzi di Gressoney nel 1778 quasi per ristabilire un legame con le vecchie comunità originarie, come spiegano queste righe. Gli 8 ragazzi di Gressoney si avventurarono sull'Is, che è un ghiacciaio più agevole da scalare e soprattutto porta alla grande finestra del Monte Rosa che affaccia sul Vallese, il Colle dell'Is. È chiaro che i giovani alpinisti, e qui il termine non è abusato per la prima volta, vogliono guardare al di là per scoprire le vestigia simboliche della città leggendaria e la presenza fisica, estremamente tangibile, di una geografia che ignorano. Per far questo affrontano deliberatamente delle difficoltà alpinistiche, che consistono nella progressione su un ghiacciaio facile ma molto crepacciato, e nell'individuazione di un percorso su terreno ignoto con l'aggravante dell'alta quota. Raggiungono una roccia caratteristica che battezzano la roccia della scoperta. Si trova non lontano dal Colle dell'Is, ben oltre i 4.000 metri di quota, sul confine con la Svizzera e ai piedi della cresta orientale dell'Iskam. Dalla cima della roccia, i giovani non vedono i mitici prati in fiore dei loro avi, ma le infinite distese del fiume di ghiaccio che precipita su Zermatt. Enfant terrible dell'alpinismo è definito nel libro di Camanni Reinhold Messner, che tra l'altro nel libro viene ricordato per un'impresa compiuta nel 1968, la scalata del Sas della Cruche nella Val Badia. Di Messner, Corbaccio pubblica La libertà di andare dove voglio, la mia vita di alpinista, tradotto da Umberto Gandini e Valeria Montagna, 464 pagine, 22 euro, ricco di grandi illustrazioni. Troviamo qua le principali imprese del grande alpinismo, da bambino fino alle scalate più recenti e all'impegno per la difesa della montagna, alla quale Messner ha dato 20 anni di arrampicata, come ricorda lui stesso, 30 salite affrontate da solo sugli 8.000. E qui ci racconta proprio quella lontana impresa del 68 della Val Badia, che fu poi ripetuta con successo da altri alpinisti soltanto 20 anni dopo Messner. Lungo una sottile crepa in fondo a un diedro poco pronunciato riuscì a salire un po' più in alto, in arrampicata libera ma azzardata. Raggiunsi una stretta e piccola cenge appena in tempo. Le forze stavano per mancarmi, ma a quel punto mi trovai davvero alla fine. Mi sbarrò la strada una placca liscia, senza fessure, con rari appigli minuscoli. 4 metri più su c'era una frattura. Lì dovevo arrivare. Stavo su una cenge larga un piede, più che altro una sporgenza irregolare. Sotto di me solo l'aria, tanta aria, un abisso strapiombante. Non c'era modo di salire verticalmente. Traversare a sinistra? Troppo liscio. Appigli troppo piccoli per poter staccare entrambi i piedi dalla cenge. Non volli darmi per vinto, continuai a provare. Passò mezz'ora senza che avanzassi d'un centimetro, e tornare indietro sarebbe stato quasi altrettanto difficile. Cercai inutilmente di scendere, a fatica, impossibile, e mi mancò il coraggio di togliermi dagli impicci con un salto. Un libro che invece ci vuole distogliere dagli stereotipi, magari quelli di tipo marinaro, è il libro di Marcello Fois, scrittore e poeta, In Sardegna non c'è il mare, pubblicato dalla Terza, 130 pagine, 6,90 euro. Fois è sardo di Barbagia, quindi puntiglioso e preciso, come sono, per sua stessa ammissione, i barbaricini. La Barbagia, scrive Fois, è una Sardegna della Sardegna, e di questa terra particolare l'autore ci dà un quadro completo. Prime 21 parole, tra le quali quella che domina queste settimane, la parola estate, che permette all'autore di denunciare le trasformazioni che la Sardegna ha subito per opera anche dei turisti, che addirittura sarebbero responsabili dell'arrivo in città finora rimaste immuni di eserciti molto antipatici, per esempio quelli delle zanzare, come spiegano queste righe. 25 gradi a luna di notte, umidità del 75%, a Nuoro, roba da matti. Prima che partissi non succedeva. Deve essere capitato qualcosa negli ultimi 20 anni. Innanzitutto non c'erano le zanzare, ora ci sono. Vi rendete conto? Nuoro è diventata città nella metà dell'Ottocento proprio per sfuggire alle zanzare e alla malaria. Questo era un posto che poteva contare su un clima straordinario, lo ammettevano anche i detrattori. Clima secco, dicevano. Clima saluberrimo. Umidità? Mai vista, dicevano. E allora com'è che nelle serate invernali a Funtana Buddia non si cammina per la nebbia? Un motivo c'è: i bacini artificiali e il turismo. Che c'entra il turismo, vi chiederete? C'entra, e ve lo dimostrerò. Ragioniamo con calma. Il tempo è denaro. L'introito più grosso della nostra economia regionale è il turismo. I turisti, si sa, sono animali strani. Vogliono stare dappertutto come a casa loro. Altra cosa sono i viaggiatori, ma questo è un altro discorso. I turisti, dicevo, non amano i disagi, e converrete con me che le zanzare sono un disagio. Ergo, nelle località costiere si procede ad una massiccia campagna di disinfestazione. Le zanzare in fuga procedono verso l'interno. Qualche anno fa sarebbero morte per il clima inadatto, ora no. Ora trovano il clima giusto grazie all'aumentato grado di umidità delle zone interne a causa dei bacini artificiali. E siamo da capo. È luna di notte. A Nuoro ci sono 25 gradi e il 75% di umidità. Il cavalier Brambilla dorme tranquillo in costa nel suo bungalow disinfestato, senza nemmeno il ronzio della radiosveglia, e rinfrescato dall'aria condizionata. E io, nella città più salubre della storia della Sardegna, quella dove appena tramontato il sole bisognava indossare il maglioncino, non riesco a dormire per le zanzare e per il caldo. Se ci fosse l'acqua mi farei una doccia. È caduto in questi giorni il 70° anniversario del Gran Consiglio, quello che si svolse il 25 luglio del 1943 e che liquidò, come ricorderete, Benito Mussolini. Uno dei protagonisti di quello storico consesso era Alberto De Stefani, economista importante, famoso per aver raggiunto come ministro del Tesoro il pareggio del bilancio. Come membro del Gran Consiglio votò anch'egli a favore dell'ordine del giorno Grandi, che appunto sancì la caduta di Mussolini, e lasciò memoria di quella partecipazione nel libro Gran Consiglio. Consiglio Ultima Seduta, che viene pubblicato adesso da Le Lettere, 110 pagine, 15 euro. Questa è una testimonianza nitida e diretta di quell'appuntamento drammatico che consente a De Stefani, che certo non rinuncia alla sua fede fascista, di rievocare gli anni precedenti, di interrogarsi sul fallimento di un regime al quale appunto aveva prestato fiducia. E non sfugge allo stesso autore quanto quell'appuntamento sia decisivo. Gli scrive infatti: che cosa potevamo noi costruire in quella seduta del Gran Consiglio? Non potevamo che determinare una crisi nel sistema destinata a immettervi il flusso di una vita nuova. E a questo punto il confettino. Vi propongo un libro sui libri, ed è un libro che ci insegna a fare appunto un nuovo libro, di Sophie e Benny Pietromarchi, che sono anche illustratori. Si intitola Il libro libro, un viaggio nell'arte di creare libri, pubblicato da Gallucci, 132 pagine, 18 euro. Un'opera appassionante per capire come nasce, come si fa un libro, attingendo anche agli oggetti di casa, di creare una storia e un titolo che daranno vita alla fantasia dei giovani autori. Con questo ringrazio Guido Scotti, redazione, Filippo Aurici, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica, vi do appuntamento la settimana prossima.